Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 6 minuti. Buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero di settembre, nel senso che ci sono state le puntate di agosto, quelle diciamo così estive. Oggi riprendono invece le puntate così, quelle alle quali siete abituati, nel senso quelle alle quali è possibile anche giocare. Infatti più tardi alle 11.30 ci sarà il mistero in 24 minuti che oggi riparte per voi, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere come sempre il mistero. La risposta può essere una delle notizie della settimana oppure un personaggio, qualcosa di particolarmente conosciuto. Avrete degli indizi musicali da ascoltare per arrivare alla soluzione e il primo indizio di questa settimana sto forse per farvelo ascoltare. Eccolo lì, è pronto e sentiamolo. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Chissà se avete riconosciuto questa canzone. Questo appunto è il primo indizio e si partirà insomma da qui per avere i 1000 euro. Vi dico subito il numero verde per prenotarvi per giocare più tardi: 800 24 00 24. Oggi parliamo di noi. Noi italiani, noi che siamo così criticati, sbeffeggiati, però anche amati. Insomma, io sono stato a Stoccolma quest'anno e devo dire che gli italiani piacciono molto agli svedesi, perché ci trattano sempre molto bene, tentano sempre di parlare l'italiano. Tutti gli svedesi, quando sanno perfettamente l'inglese, al contrario di noi che non lo sappiamo, loro lo sanno molto bene. Però appena capiscono che sei italiano, cercano di dirti qualche parola in italiano, perché per loro così è piacevole la nostra lingua, è piacevole da ascoltare. E lo dico perché ho conosciuto, girando i negozi, posti così, anche musicisti appunto svedesi che hanno suonato, anche composto cose importanti, mi dicevano che la lingua italiana a loro piace molto. Parlo della Svezia anche perché avrete letto la notizia di quell'italiano che, avendo pare dato uno schiaffo al figlio a Stoccolma, ha dovuto rinunciare alla vacanza perché è stato arrestato per 3 giorni. Adesso ha solo l'obbligo di firma, è stato tra virgolette rilasciato e il 6 settembre ci sarà il giudizio, perché in Svezia è vietatissimo toccare i figli, cioè picchiarli o fare qualunque cosa, perché è considerata molestia, ecco, qualunque atteggiamento contro i propri figli. E pare che questo ragazzino non volesse entrare al ristorante, il padre l'ha un po' strattonato, qualcuno ha chiamato la polizia dicendo: ah, un bambino è stato preso a schiaffi, e poi da lì tutta la vicenda. Vedremo chi ha ragione, speriamo che vada tutto bene ovviamente, e comunque lo sapremo soltanto il 6, quando ci sarà appunto la sentenza martedì. Da lì sono partito per cercare di capire come siamo noi italiani, come ci comportiamo, come siamo visti. Abbiamo veramente pregi e difetti? Ci sono degli stereotipi che esistono, che sono radicatissimi e che non riusciamo a toglierci, oppure perché proprio ci appartengono? Magari abbiamo delle caratteristiche che abbiamo e basta, e siamo così dappertutto e non ce ne rendiamo conto. Insomma, come siamo noi italiani? Quali sono i nostri pregi e i nostri difetti? Di questo parliamo. Gli sms al 349-238-6666, sarà la nostra pagina di Facebook, Il riposo del guerriero. Italiani, i come italiani, i come innamorati, i come odiati, i come più furbi, insospettabili, i come italiani, incorreggibili, i come incazzati, incorruttibili, i come impossibile, non amarli più. La voce inconfondibile di Fabio Concato per questa bella Italia un po' che ci rappresenta. Incazzati lo siamo sicuramente, come dice, siamo comunque anche fantasiosi e sbruffoni e inaffidabili. Scrivo un messaggio: siamo tutti chiacchiere e distintivo, siamo un popolaccio. Bello, perché poi ci riguarda anche quando uno scrive. Un mio amico un giorno, andando in vacanza a Formentera, disse: guarda, bella Formentera, ma è piena di italiani. E io ho risposto: e tu cosa sei? Cioè, anche lui faceva parte del gruppo, per cui alla fine ne facciamo parte, avremo anche qualcosa di buono, lo scopriremo tra pochissimo dopo gli aggiornamenti sul traffico. Strade in diretta. Sulla 14 Adriatica si incontrano code per un incidente da poco avvenuto tra i due svincoli di Vasto in direzione di Pescara. Sempre in A14 rallentamenti e code a tratti per il traffico intenso verso Bologna tra Pesaro e Riccione e tra Castel San Pietro e Bologna Borgo Panigale. Verso la Svizzera code per operazioni in dogana sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso uscita merci. Al confine di Stato è chiuso il traforo del Gran San Bernardo in entrambe le direzioni per una frana avvenuta in territorio svizzero causata dalle forti piogge di ieri. Ed è tutto, strada in diretta, torna tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Partiamo subito con il professor Vincenzo Maria Mastronardi, che saluto. Professore, buona domenica. Buona domenica a lei, buona domenica agli ascoltatori. Vincenzo Maria Mastronardi è psichiatra e criminologo clinico e qualche anno fa ha pubblicato due volumi intitolati Psicologia degli italiani del centro-nord, tipi, vizi, pregi e difetti, e Psicologia degli italiani del centro-sud, tipi, vizi, pregi e difetti. Allora, professore, intanto i libri accomunano una cosa, il centro. Nel senso che uno è centro-nord e l'altro è centro-sud. E allora il centro è proprio centro, nel senso che accomuna tutti e due i tipi? Dunque, è stato un po' difficile perché abbiamo fatto tutta una disamina storica per nulla facile. Pensi che abbiamo dovuto ricorrere ai dialetti, al dizionario dei dialetti italiani, proprio per vedere la commistione tra i vari popoli, eccetera, giungere dai Longobardi, quindi in qua. E il centro quindi a questo punto si era incerti se addossarli quindi al nord oppure al sud, e quindi alcune regioni in realtà possiamo dire che le Marche, per esempio l'Umbria, eccetera, sono state poi da subito individuate come appartenenti al sud, e viceversa altre invece come appunto per esempio il Molise, l'Abruzzo, eccetera, palesemente, curiosamente, insieme al nord, proprio per divisione di regioni. Ecco, la Sardegna è stata associata al centro, nel volume sul sud o nel volume sul nord? Sul sud. E la Sicilia ovviamente sul sud. Sì, anche perché la Sardegna, appunto, proprio le caratteristiche psicologiche sono peculiari, nel senso che pur essendo un popolo che lascerebbe pensare ad origini marinare, ma non lo è affatto, perché ha dovuto difendersi appunto dalle invasioni dei popoli che arrivavano dal Nord Africa, quindi la Mauritania, dall'Italia, dalla Francia e dalla Spagna. Quindi è un popolo che ha pensato sempre a Opurceddu, ha pensato sempre alla terra, già mai a tutte le coste, che non è un popolo marinaro, ecco, questo. A proposito di, lei accennava prima giustamente alle cose belle che gli italiani hanno, la Sardegna d'accordo che ha avuto sempre timore della invasività altrui, però culto delle tradizioni, la riservatezza, però a volte anche la testardaggine, la permolosità, la diffidenza, ecco questo, ed è un fatto storico irrinunciabile. Ecco, se noi per esempio prendiamo appunto proprio un fatto storico della Liguria, si è sempre detto: ma come mai i liguri sono realmente tirchi? Sì, così arroccati, ma forse anche la posizione geografica che richiede questo tipo di atteggiamento. Prima avevano fiorenti traffici con Costantinopoli fino al 1400, dopodiché poi dopo Venezia ha soppiantato tutto, sono diventati cugini poveri, e quindi a questo punto con i pirati che arrivavano dal mare, all'improvviso dovevano riparare sulle colline di Recco, quindi ecco la focaccia di Recco, molto fina, perché una famiglia riparava sulle colline dell'interno, appunto proprio con una capretta e un sacco di farina, per cui a questo punto il latte e la farina dovevano bastare appunto per un intero mese, per una famiglia intera di padre, madre e figli naturalmente. Ecco professore, allora così, se dobbiamo dividere, dividiamo, e purtroppo lo facciamo allora anche con pregi e difetti. Ci sono degli stereotipi tipici del nord, del centro e del sud, dei quali proprio non riusciamo a fare a meno? Sì, dunque Dobbiamo tenere presente che il Trentino Alto Adige è determinato dall'essere considerato i tedeschi d'Italia, quindi con una comunicazione per nulla, vuol dire con apparente empatia comunicazionale, solo apparente naturalmente, ognuno ha il suo modo di comunicare sintonia e simpatia, però i tedeschi d'Italia, ecco, il Piemonte è caratterizzato da un carattere sabaudo, quindi il senso del dovere, della discrezione, l'efficienza, eccetera. La Lombardia è caratterizzata dal volere e potere, quindi la laboriosità, l'autostima, stiamo parlando sempre del nord e quindi di tutte queste caratteristiche che contraddistingue il nord, quindi il Veneto, operosità, inventiva, la fantasia, e ripeto, non sono voglio dire stereotipi così costruiti a sé, abbiamo voluto verificarli grazie a tutto il materiale che abbiamo trovato nella biblioteca del Senato qui a Roma e quindi in tutte le biblioteche peculiari, quali anche quelle in Lucania. Se passiamo poi a vedere il sud, quindi come... Ecco, scusi se la fermo, professore. È vero, caratteristiche che apparentemente sembrano tutte caratteristiche, chiamiamole così, positive, belle, ma ci saranno anche vizi, dei difetti del nord, ce ne saranno tanti, immagino. Voglio dire, per esempio... la scontentezza, il mugugnio. Siamo sempre arrabbiati, questo è il senso. Sempre, sì, no, ma non tutti, meno male. La Toscana, ad esempio, sono sempre con un certo orgoglio storico, quindi con umorismo commisto a scontentezza. Se per esempio poi prendiamo la Lombardia, d'accordo, l'autostima, però antepongono la fretta all'interazione. Ecco, se per essere, però vogliamo vedere per esempio l'Emilia Romagna, sono i Guasconi d'Italia, quindi caratterizzati dall'allegria, dalla cordialità, dalla gioia di vivere. Ecco, questo a proposito di positività e negatività. L'Abruzzo che dicevamo viene così addossato così al nord Italia, curiosamente per un fatto storico, proprio curiosamente l'abbiamo scoperto con i miei collaboratori solo appunto poi mettendoci le mani poi in tutto questo materiale bellissimo. L'Abruzzo è caratterizzato dalla necessità di fomentare il suo folklore, quindi con la sua forza di volontà, eccetera, questo come positività e negatività. Le negatività sono per esempio il pessimismo ligure, il salvadanaio mentale della Liguria, poi può essere nel Friuli Venezia Giulia per esempio, vediamo sempre un pizzico di nostalgia perenne, che è un fondus caratteristico di tutti quanti coloro che vivono nel Friuli. Quindi, siamo un popolo di furbi, come si dice, professore, in generale? Più scendiamo verso il sud e più a livello storico la furbizia, poi dopo è chiaro che il popolo del sud è passato al nord e viceversa, c'è poi stata una commissione per trasferimento, eccetera. Però se prendiamo la Campania classica, l'arte di arrangiarsi, la superstizione è commista però all'allegria, ma la sfrontatezza. Il Lazio poi è particolare, perché nel Lazio vediamo appunto lo scetticismo, l'ironia, la spacconeria, la spavalderia, la saccenteria, l'astuzia che diceva lei, la cialtroneria, l'indolenza, ecco. Le sette ossessioni capitali, come furono definite, che sono appunto per i romani e per il Lazio, ma specie per i romani, la sola cosiddetta, cioè la paura delle fregature. Ecco, la rumorosità, i cacciaroni cosiddetti. Normalmente si dice che prendere atto di qualcosa poi ci serve in qualche modo a migliorarci, no? E tutto quello che ho sentito adesso appare un po' un luogo comune. In realtà voi avete fatto degli studi molto precisi e anche complessi per riuscire ad arrivare a dare forza proprio al luogo comune, che allora così luogo comune non è. Esatto, esatto. Ci abbiamo messo, guardi, contrariamente agli altri libri dove ci si impiega un anno, da uno a tre anni, a tre anni e mezzo, qui ci abbiamo messo 7 anni per 2 volumetti abbastanza snelli di 128 pagine l'uno, ma non è stato facile, appunto perché proprio non c'era che pochissimo materiale. Abbiamo disturbato tutte le biblioteche d'Italia, o quasi tutte, e a un certo punto soltanto poi dopo la commissione dei dialetti italiani, quindi il famoso macroscopico dizionario dei dialetti italiani, ci ha consentito di vedere quali erano i popoli che giungevano, quindi per esempio Bari, la Puglia, ma essenzialmente Bari era un emirato arabo, è nato come emirato arabo, quindi con tutte le caratteristiche arabe, per cui la parsimonia, l'amore per la terra, in questo caso il valore del lavoro, eccetera. Questi che erano i luoghi comuni, ma con altre caratteristiche che poi abbiamo esaminato, ma prendendo spunto da tutto quanto quello che già diceva Omero e quant'altri, da tutto quanto. Ecco, professore, lei che è anche criminologo clinico, volevo capire se questa conoscenza in qualche modo degli italiani, anche così diversificati da regione, le è servita per capire i caratteri poi delle persone che si è trovato di fronte a dover così in qualche modo capire. Le dico proprio in queste ore, sì, stavo concludendo un bel lavoro a 2 firme di George Palermo è la mia firma. George Palermo è un criminologo americano. Abbiamo fatto quindi un lavoro che stiamo andando solo a perfezionare, dei profili comparatistici internazionali, appunto, sulla criminalità italiana e quella americana. Sì. Tutto il mondo è paese, per cui gli omicidi in famiglia esistono qui così come esistono in America, e sono più frequenti quelli che avvengono non in famiglia, naturalmente, e possiamo quindi ognuno è caratterizzato sempre, ogni popolo è caratterizzato da stati d'animo ambivalenti e peculiari, ma per esempio quando andiamo a considerare quelle che possono essere i numerosi tratti di personalità universalmente condivisibili, sono la egocentricità, l'impulsività, il narcisismo, l'ossessività e la compulsione, a volte quindi l'aggressività, l'ambivalenza, la labilità emotiva, fenomeni qui voglio dire tutte quante caratteristiche comuni sia agli italiani che agli americani, come a tutti i popoli di tutto il mondo, eliminando quindi settori criminali quali per esempio quelli relativi ai debiti di droga della criminalità organizzata o quello relativo alle guerre. Sì, che sono altre, sono motivati da altro, certo. In altri parametri, sì, naturalmente. Quindi qui, questo che abbiamo visto, queste esemplificazioni che stavamo facendo, sì, dei tratti di personalità, posso assicurare, questo per rispondere alla sua domanda, che sono abbastanza comuni. Ho fatto solo di percentuali, di percentuali. Guardi, io insegno anche, abbiamo creato il master col mio rettore dell'Università di Roma, la Sapienza, sì. Abbiamo creato pure un master in Argentina con l'Università di Polizia Federale Argentina. E i fenomeni criminali invece lì si distinguono perché sono i giovani, le bande criminali che imperversano, a differenza di quello che avviene da noi. Qui c'è il bullismo, magari, che è un fenomeno transeunte, ma che non va oltre la droga, d'accordo, sì, ma lì ci sono proprio bande organizzate che dove c'è un capo, qui non c'è un capo, è trasversale. Ecco, quindi se vogliamo vedere la differenza che c'è anche a livello di criminalità tra l'Italia e altri stati, le caratteristiche, possiamo dire sì che ci sono qualche caratteristica, per esempio nel Nord America la famiglia viene subito abbandonata, cioè subito si va via di casa a 16 anni, a 17 anni, quando si ha il patentino praticamente. Ecco, quindi forse questo nostro vizio invece di stare a casa un po' di più alla fine si trasforma in un pregio in queste cose. Sì, noi lo vediamo appunto proprio in tutte quelle che dicevamo sono le caratteristiche degli italiani, ma per esempio quando prendiamo la Basilicata, lì c'è il culto per la tradizione, per la religiosità, la Calabria, la famiglia. Ecco, la infatti Calabria. Avrei chiuso chiedendole, perché la devo poi salutare, chiedendole qual è la regione, se ce n'è una più legata alle tradizioni in Italia, e forse mi ha risposto proprio adesso, Basilicata. Beh, sì, e Calabria. Guardi, è la Calabria, guarda, la Calabria, la Basilicata è più... È come se vivesse appunto di sicurezze autoctone, autogene, proprio grazie all'appartenenza a una famiglia, alla propria. Ecco, che in generale poi dovremmo, così, una virtù che dovremmo un po' far maturare tutti dentro di noi. Grazie professore, e buona domenica, so che c'è molto da dire, ma grazie ancora. Era il professor Vincenzo Maria Mastronardi, psichiatra e criminologo clinico. Vi ricordo i volumi che ha pubblicato, fra i tanti, anche questi, Psicologia degli italiani del centro-nord, tipi, vizi, pregi e difetti. E poi altro volume, Psicologia degli italiani del centro sud. Tra pochissimo continuiamo a parlare di pregi e difetti, ma legati a noi italiani e alla nostra lingua. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi: 349-238-6666. 10:34 minuti, pregi e difetti degli italiani. C'è chi dice: è da 24 anni che sono in Italia, conosco perfettamente gli italiani, siate voi stessi, siete ottimi e non come quei ghiacciati gli svedesi. Francesca Dragotto, buona domenica, ciao Francesca. Buona domenica a te e a tutti, buongiorno. Il nostro ricercatore nel settore glottologia e linguistica. Allora, noi italiani ci distinguiamo, anche visto che abbiamo diviso per regioni, prima abbiamo fatto con il professor Mastronardi, e lo dobbiamo fare anche con la nostra lingua, che cambia, al di là dei dialetti, cambia da regione a regione. Voi mettete le doppie dove non ci vogliono, per esempio. Ecco. Esattamente, soprattutto tra una parola e l'altra, quando una consonante si trova in posizione intervocalica, penso al caso la sedia invece di la sedia, oppure ai tanti raddoppiamenti o addirittura accumulazioni di consonanti interne alla parola in luogo del suono singolo che ci attenderemmo nel cosiddetto italiano standard. Ecco, quindi questi difetti, tra virgolette, poi riusciamo curiosamente costantemente a mantenerli e riusciamo a non perderli. Perché, Francesca, nel tempo, cioè, malgrado si sappia l'errore, magari si tenti anche di correggerlo, in realtà nel tempo tutti questi difetti, tra virgolette, restano? Beh, la lingua è un'abitudine, quindi anche una moda, al pari dell'abbigliamento, al pari della moneta, di qualunque altro tipo di istituzione, ma in più rispetto ad un semplice vestito, nel caso della lingua scatta un meccanismo di identificazione, una sorta di identificazione di vessillo, quindi parlare in un certo modo ci rende consci del fatto che apparteniamo ad una certa comunità e ci rende anche fieri di questa appartenenza, quindi noi marchiamo la differenza tra noi e gli altri proprio sulla base di come le parole vengono articolate. Parliamo dunque essenzialmente in prima battuta di pronuncia e soltanto successivamente di caratteristiche di tipo morfologico, sintattico oppure lessicale. la prima cosa che ci identifica è come pronunciamo. Sì. Quindi insomma da quello poi facciamo, cioè, ci presentiamo una sorta di biglietto da visita. Ecco. Beh sì, una curiosità, D'Annunzio frequentò il collegio nella provincia di Prato, all'epoca del ginnasio, all'epoca dei primi rudimenti del latino gli fu chiesto di declinare nella prima declinazione il nome Rosa e lui si alzò e pronunciò Rosa, Rose, perché naturalmente la sua provenienza abruzzese lo spingeva a chiudere la O. Quella O. Certo. E di conseguenza D'Annunzio si portò avanti nel corso della sua vita, abbiamo tracce di un carteggio anche di un D'Annunzio in età avanzata che ricorda questo episodio, si portò avanti il senso dello stigma, il fatto quindi di essere stato percepito come diverso, in qualche modo bollato dai propri compagni per aver utilizzato una pronuncia diversa rispetto a quella in uso presso Prato. Io sono stato bollato per aver detto telefono in onda al posto di telefono, ecco, vedi tu, succede anche questo. Ma questo me lo ricordo, è successo prima dell'estate, però si tratta di un, passami il termine errore, anche se poi sul termine errore dovremmo andare a discutere, perché spesso l'errore di oggi è l'innovazione di domani, quelle che oggi sono riconosciute come forme di riferimento soltanto pochi decenni o pochi anni fa potevano essere, anzi erano senz'altro sentite come errori. Quello che fa da confine tra l'errore e l'innovazione è la sensibilità dei parlanti, quando l'orecchio non stride più, quindi quando non ci viene più da dire questa cosa ci suona male, significa che un errore è diventata la nuova forma di riferimento. E qui torniamo sul congiuntivo che ormai non si usa più. Certo. Apriamo e non solo, cosa aggiungiamo allora? Ad altro? Beh, ci potremmo aggiungere il periodo ipotetico dell'irrealtà con l'indicativo invece che col congiuntivo, se facevo invece di se avessi fatto, tanto per intenderci. È perché se avessi fatto è più lunga, è esattamente, tutta facciamo poi più fatica. Il congiuntivo è una forma meno usuale, stando insomma almeno ai modelli di italiano che si usano oggi, il congiuntivo è una forma meno usuale rispetto all'indicativo. Ne abbiamo parlato tra l'altro tante volte, ne abbiamo parlato, per poi vedere che cosa accadrà, bisognerebbe campare 400 anni per riuscire a capire cosa succederà anche della nostra lingua. E volevo chiederti un'altra cosa, finire con questo, Francesca, usiamo la parola stereotipi e così a orecchio, senza saperne niente, a me verrebbe da dire stereotipi, no? Perché immagino che sia l'unione di queste due parole o sto sbagliando completamente? No, naturalmente non sbagli, sui composti dovremmo discutere molto. Stereotipo presuppone il mantenimento del confine tra i due elementi del composto. Nell'italiano, nella maggior parte dei casi, accade che una volta percepito da parte dei parlanti il composto come un'unica parola, la parola venga sottoposta a diverse leggi di accentuazione, e questo naturalmente ci porta alla diffusione di tutta una serie di pronunce che si sono talmente appunto diffuse da essere accettate anche dai dizionari, magari non come forme predilette dalla norma, ma comunque come forme di maggiore diffusione. Me ne vengono in mente, che so, mi viene in mente aeroporto invece di aeroporto. Sì, ecco, la famosa E che si aggiunge. Senti, Francesca, c'è proprio un errore che facciamo come italiani, o magari invece c'è una regione che lo fa e non altre, e che tu trovi particolarmente fastidioso invece, o no? Ma onestamente sì, abbiamo già parlato tra gli errori che vanno adesso di moda e che speriamo non diventino delle innovazioni, abbiamo parlato prima dell'estate del piuttosto che utilizzato in forma non comparativa. E quello quindi... siamo come noi del nord, ecco, che è un milanesismo proprio. Sta diventando pane italiano, perché in questo senso mi riaggancio a quello che hai detto tu sui 400 anni, non sì. Avremo bisogno di aspettare 400 così anni, tanto. Purtroppo no, o per fortuna no, perché con i mezzi di diffusione di massa la capacità di veicolare in maniera capillare un'innovazione è sensibilmente più bassa, cioè quindi la capacità è migliore e quindi il tempo che serve per veicolare l'innovazione è sensibilmente più basso rispetto a quanto è successo fino a poco tempo fa. Diciamo che ci sono, se vogliamo mantenere il termine errore, ci sono errori separativi ed errori congiuntivi, quindi ci sono errori che uniscono l'Italia e errori che separano l'Italia. Tra gli errori che uniscono sicuramente abbiamo il lui utilizzato come soggetto, quindi non c'è una tendenza a dimenticare l'egli o l'ella a vantaggio di un lui, lei, che tecnicamente non dovrebbe essere utilizzato, benché ormai sia perfettamente sia perfettamente acclimatato, insomma tutti lo riconoscono come non solo come accettabile ma come forma di riferimento. E ne abbiamo anche tanti altri, non so se abbiamo tempo per vederne qualcuno, però pensiamo anche semplicemente alle forme di cortesia. Sì. Prima la contrapposizione tra le diverse zone d'Italia era tra chi utilizzava come forma di rispetto, come forma di cortesia il lei rispetto al voi. Oggi c'è una ulteriore differenza che si innesta su quelli, quindi l'incapacità di distinguere la forma di cortesia da quella informale, quindi una diffusione del tu a scapito invece sia del lei che del voi e del loro al plurale. Ecco, però su questo ti volevo dire una cosa, è una riflessione che voglio fare con te, la faccio insieme agli ascoltatori. Si parlava proprio di alcune lingue che non hanno la forma, che non hanno il voi come la nostra, perché usano il tu in modo indifferente. E questo non fa cambiare anche i comportamenti con le persone in generale? Sicuramente sì. C'è però da tenere presente che anche nel caso di lingue che non marcano attraverso un elemento grammaticale, quindi attraverso una parola, una particella, la differenza tra il cosiddetto tu e il cosiddetto lei, insomma tra sì, la forma esatto, di cortesia, certo. Comunque sia, anche in quelle lingue esiste tutto quanto un apparato di forme che non sono soltanto comportamenti linguistici, ma sono anche comportamenti di tipo pragmatico, quindi si riferiscono a come, alle attitudini comportamentali, a come ci si relaziona con gli altri, che fanno sì che i parlanti di quelle lingue siano perfettamente in grado di capire se si stanno intrattenendo con qualcuno che si trova sullo stesso livello oppure con qualcuno che invece va tenuto non dico a distanza, ma insomma rispetto al quale bisogna avere del rispetto, certo, in qualche modo un po' di riverenza ci vuole, perché almeno va marcato anche questo, ovviamente. Grazie Francesca, ti lascio solo con un messaggio, ma di questo abbiamo già parlato, voglio legarmi a quello che sto per fare ascoltare, perché dice tutto molto interessante, però secondo me la ricercatrice, che saresti tu, farebbe bene a non triplicare ogni consonante iniziale, ma di questo avevamo già parlato. Oh sì, e posso anche rispondere in diretta, c'è stato un periodo in cui tendevo allo standard, ma in quel periodo mi sentivo priva di personalità come la maggior parte dei parlanti italiani, proprio perché, come dicevo prima, il fatto di avere determinate abitudini ci fa sentire più noi stessi, poiché ovviamente in un contesto di tipo formale si debba tendere a parlare lo standard, questo è un altro discorso, lo condivido. A questo punto la domanda è: il contesto in cui stiamo parlando è formale o informale? Perché se deve essere informale mi dovrebbe portare ad esempio ad utilizzare anche forme, e mi riferisco a scelte lessicali prima di tutto, di tipo più alto, di tipo più elevato. Ecco, poi così diventano anche più difficili da comprendere. Grazie, davvero grazie Francesca, grazie, ci sentiamo presto come sempre. E proprio per così legandomi a quello che ha detto Francesca prima della abilità, un minuto soltanto, perché Francesca diceva che comunque anche il modo di parlare ci caratterizza, è un po' il nostro biglietto da visita. Voglio farvi sentire questo pezzetto sui tamarri. Voi sapete che in America c'è in grande successo di Jersey Shore, che è un reality sui tamarri italo-americani, e poi abbiamo anche la nostra versione. E sentite questo dialogo fra Manuel e Claudio. Secondo me oggi, adesso come adesso, essere tamarro è un vantaggio, non è più uno svantaggio. Credo che lo stiamo dimostrando facendo vedere all'Italia che poi non siamo così chiusi e cafoni come dicono tutti quanti. Comunque per me essere tamarro invece è uno stile di vita. Sempre detto, uno stile di vita è una forma di carattere, che comunque sia l'abito un far monaco, e quelli che hanno la giacca e cravatta adesso quando pensa che sono tamarri perché hanno una giacca e una cravatta, perché non ho visti tanti che sono più tamarri di noi. Il riposo del guerriero. Scopri Alfa Romeo Giulietta, la più sicura della categoria, con 5 stelle Euro NCAP. Vi presenta Strade in diretta. Sulla 14 Adriatica in Abruzzo ci sono code per un incidente tra i due svincoli di Vasto in direzione nord verso Pescara. Sempre in A14 rallentamenti e code a tratti per traffico intenso verso Bologna tra Pesa e Riccione, tra Faenza e Imola e tra Castel San Pietro e Bologna Borgo Panigale. Traffico intenso verso Bologna anche lungo il tratto appenninico dell'Autosole, dove ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino di Mugello. Aumentano i veicoli in viaggio sulla 22 del Brennero verso Modena, si rallenta tra Bolzano Sud e Rovereto Sud. Infine verso la Svizzera ci sono code per operazioni in dogana sulla 9 tra Como, Montelimpino e Chiasso. Ed è tutto, Strada in diretta, tornata a mezz'ora. Promo 24. L'Italia non esisteva ancora, ma Piacenza Cashmere sì. Da 278 anni nelle Prealpi biellesi, Piacenza Cashmere produce abbigliamento e tessuti con i filati più esclusivi e preziosi, che solo da 150 anni sono anche made in Italy. Oggi come allora, la Fratelli Piacenza lava i propri tessuti solo con l'acqua più pura e li lavora con i cardi vegetali essiccati. Tradizione e continua innovazione, unite al rispetto per la natura e alla passione per i filati pregiati, fanno di Piacenza Cashmere una realtà unica nel mondo. Piacenza Cashmere, made in Italy da 150 anni, italiani da 278. Il riposo del guerriero. Io ho l'impressione che noi come italiani così si abbia un po' la passione anche dei nostri difetti, cioè ci ridiamo un po', i nostri difetti ci piacciono anche, perché ogni tanto così calchiamo la mano su questo, però abbiamo anche molti pregi, uno dei quali è sicuramente la capacità di fare il pane. Però non so se avete letto, qualche giorno fa Corriere della Sera ha pubblicato un allarme intitolato "Abruzzo cercasi fornai disperatamente". Così abbiamo recuperato Vinceslao Ruccolo, che è il presidente dell'associazione panificatori abruzzesi, per farci spiegare meglio. Vinceslao Ruccolo, buona domenica. Buongiorno. Allora, prima di io non so se partire dal problema della ricerca dei panificatori oppure del mestiere. Io partirei dal mestiere, visto che ci appartiene come italiani. Allora, è un mestiere difficile perché bisogna lavorare la notte, però ce ne sono tanti altri, voglio dire. Ci appartiene perché il nostro pane è sicuramente un pane straordinario, dobbiamo mantenere quindi la tradizione, ma cosa succede? Succede che ultimamente, da 10 anni a sta parte, con tutti gli appelli che abbiamo fatto pure in passato, non riusciamo a trovare la manodopera che possa dare un ricambio di generazioni in queste attività. Eppure non si guadagna poco, è vero che si riescono a guadagnare anche 3.000 euro al mese? È normale, sì. Se noi partiamo da un apprendista che inizia l'attività di panificazione con un livello standard di 1.200, compreso poi più tasse, via dicendo, tutto quello che comprende la nostra normativa italiana, arriviamo a una qualifica maggiore, che poi quando si arriverà a fare degli straordinari, perché il notturno prevede il 50% in più di contribuzione, le domeniche, che oggi sempre il commercio è liberalizzato, si lavora anche di domenica, si lavora sempre, quindi andiamo anche sul 75% del lavoro domenicale in più, e si possono arrivare anche a quelle cifre là tranquillamente, perché poi le stagioni estive, per quanto riguarda la nostra zona, che è un litorale, quindi c'è il turismo, certo, si arrivano a quegli importi. Come del resto forse ci sono altre realtà che pur si può arrivare, perché o per afflusso turistico religioso, per afflusso turistico mondano, poi saranno loro a vedere la situazione. Ecco Ruccolo, però la questione è: mancano i panificatori. Questo forse non so se è una realtà, è una realtà che riguarda un po' tutta l'Italia o in particolare l'Abruzzo? C'è stato subito dopo il mio appello, sì, che ringrazio il giornalista Catenaro Nicola del Corriere della Sera, se mi permettete. Come no, certo. Che ha fatto l'articolo, che è uscito il primo, il 2, il giorno dopo c'è stato l'appello dei panificatori romani, che hanno lo stesso problema. Immagino, perché alla fine è il tipo di lavoro che in qualche modo spaventa o allontana, immagino. È normale, perché tu devi privare a un giovane di fare una vita normale con la propria famiglia, con i propri amici, con la propria ragazza, perché la sera deve riportarsi. Ho capito Ruccolo, ma lei a che età ha cominciato a fare il panificatore? Mio padre, quando ha preso un panificio, avevo 7 anni. Quindi anche lei ha rinunciato. 50, sì. Ha rinunciato anche lei, come insomma, fa parte del mestiere anche questo. Basta l'esperienza, ogni volta che ho preso qualche ragazzo che aveva sui 18-19 sì, anni, mi riusciva difficile imparare questo mestiere. Noi di questa età, sui 50, che stiamo facendo la panificazione, siamo nati forse dai... Io, perché mio padre già era panettiere, avevo 7 anni, quindi 7-8 anni. Ma ragazzi che facevano gli apprendisti che noi avevano 14, 15, 16 anni, che intraprendevano l'età della panificazione la notte. Oggi una buona parte di questi hanno il proprio panificio. Mm. Certo, quindi alla fine si sono messi in proprio. Ecco Ruccolo, diciamo delle cose belle di questo mestiere, a parte il guadagno che è interessante, però quali sono le altre soddisfazioni? Perché ce ne saranno sicuramente. Beh, è normale, la soddisfazione più bella è che tu ti trovi in mano un po' di acqua, un po' di farina, un po' di lievito e crei qualcosa così dal naturale, perché poi è una lievitazione, no? Certo. Vai a creare, io faccio un esempio stupido, forse non lo so come l'intervista di primi, Tamarri, Cafoni, no? Dico, è come se tu stai curando un bambino dall'allattamento in poi, perché alla fine tu non fai altro che fare un impasto con acqua e farina, un po' di lievito di birra, un po' di lievito naturale, e stai lì attento alla massa che lievita nel primo passaggio. E poi puoi fare tante forme di pane, tante forme di pani dolci che vanno dai maritozzi, cornetti. Quindi in una nottata, fino alla mattina che lavori, puoi svariare e poi creare tanti quei prodotti che alla fine ti danno una grandissima soddisfazione. È bello, c'è molto cuore in questo racconto, Vinceslao, e non è affatto semplice, perché detto così sembra facile, e poi se vuole vedere la mia farina con l'acqua e il mio lievito che cosa viene fuori, sicuramente non è il pane che producete voi, e non venitemi a parlare in generale di quello del pane industriale, perché veramente niente, ma proprio niente ha a che fare con il vostro. E speriamo che questo appello venga in qualche modo accolto e raccolto. Io un appello volevo fare. Sì, rifacciamone un altro allora. Che è? Un appello è importante. Noi come panificatori italiani abbiamo presentato una legge nel 2006. Sì. Dove era previsto il regolamento del pane fresco. Perché dico pane fresco? Perché noi panificatori artigiani produciamo nelle 24 ore, senza nulla togliere chi fa il pane industriale, semi-industriale o precotto, sono anche quelle dei buoni pani, nessuno vuole creare un disguido, però noi che lavoriamo nelle 24 ore, sarà possibile che il governo potrebbe ascoltare questo appello, anche per dare una valenza in più pure alle nostre piccole aziende artigianali, che forse sono il volano di questa economia italiana, perché bene o male continuiamo a lavorare ancora in famiglia, sacrificandoci. Se potrebbe regolamentare questa faccenda del pane fresco, sia come il latte fresco e il latte conservato. Se il pane è prodotto nelle 24 ore, è giusto che venga denominato pane fresco. Se poi c'è la scadenza di 5-6 giorni, senza nulla togliere, perché sono anche quelli dei buoni pani. Però insomma, fare questo distinguo, in fondo lo facciamo anche noi quando parliamo normalmente. Hai comprato il pane fresco e intendiamo quello appena cotto, insomma da poco, altrimenti noi parlando genericamente prendiamo del pane in modo generico. Vinceslao Ruccolo, grazie davvero, e speriamo che qualcuno risponda all'appello e così possa pensare di fare questo mestiere. Buona domenica ancora, grazie. Grazie a voi, buongiorno. Grazie. Aldo Mencaraglia, buona domenica. Pronto, buongiorno. Eccoci qua. Siamo collegati con l'Australia in questo momento, perché Aldo è in Australia, è un italiano che è fuggito dall'Italia, adesso sentiamo perché, e che ha costruito un sito, si chiama Italians in Fuga. Come mai è fuggito dall'Australia, Aldo? Cioè dall'Italia, Italia, scusi. Dall'Italia io veramente non fuggito, tra virgolette, 20 anni fa, sono andato a studiare in Inghilterra all'università. Sì. E niente, mi è piaciuto moltissimo, quindi sono rimasto lì 10 anni, nel frattempo ho conosciuto quella che sarebbe poi diventata mia moglie, e dopo 10 anni però della pioggia inglese proprio io non avevo più voglia, e niente, io e mia moglie abbiamo deciso dove andare a creare una famiglia, abbiamo deciso di puntare verso l'Australia, che è la patria originaria di mia madre. Ah, ecco, ecco, quindi c'è... C'è un motivo anche personale. E gli australiani, che sono così lontani davvero, da tutto in fondo, non soltanto dall'Italia, come ci vedono? Come siamo noi? Cioè, come siamo agli... Perché io so che esistono anche delle realtà, c'è una radio, se non mi sbaglio, che trasmette solo musica italiana per gli italiani che vivono in Australia, e che mette canzoni tra l'altro anche del passato, non tanto del presente. E volevo un po' capire come siamo visti noi italiani dagli australiani. No, noi siamo visti, secondo me, bene, nel senso che qui c'è stata un'immigrazione italiana del dopoguerra enorme, la comunità italiana è proprio molto molto grande, ci sono 200.000 persone che vivono qui in Australia adesso che sono nate in Italia, mentre quelli che hanno più o meno collegamenti all'Australia per discendenze varie sono circa 800.000, quindi su una popolazione di 21-22 milioni è proprio una fetta molto importante. E niente, gli italiani sono venuti qua appunto nel dopoguerra a fare i lavori che gli australiani non volevano più fare, quindi nell'agricoltura, nell'edilizia, nella ristorazione, quindi molto duri, e si sono fatti rispettare, si sono creati una reputazione per lavorare duramente. E quindi io sinceramente sono arrivato qua e ho tratto beneficio dal loro duro lavoro nei decenni. Ecco, siamo considerati persone serie, quindi? Sì, sì, senza dubbio, perché gli australiani, ovviamente dopo un iniziale scetticismo, perché ovviamente il nuovo, l'immigrato si vede sempre con un po' di sospetto, poi nei decenni successivi semplicemente gli australiani hanno imparato ad ammirare il lavoro degli italiani, e ci sono stati centinaia di migliaia di esempi appunto che hanno fatto appunto creare questa immagine di serietà. Poi gli italiani hanno anche introdotto la cucina, il vino, il cibo, eccetera, eccetera, quindi il contributo italiano all'Australia viene molto bene apprezzato. E per i vini anche in modo particolare. Aldo Mencaraglia, la devo salutare, la ringrazio molto. Vi ricordo il sito che è italiansinfuga.com, storie di italiani in fuga. Buona domenica, grazie. Buona domenica a voi. Il riposo del guerriero. 11.05, riposo del guerriero su Radio 24, stiamo parlando di pregi e vizi di noi italiani, ne abbiamo tanti, però avete sentito che in realtà in Australia siamo visti anche molto bene, perché questo sicuramente ci fa piacere. È vero che ogni tanto ci crogioliamo un po', no? Nei nostri vizi. Intanto vi ricordo il numero verde, perché più tardi si giocherà alle 11.30 con il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, il numero 800 24 00 24. E allora, per cercare di capire un po' se abbiamo davvero vizi, quali sono, o anche virtù, perché no, speriamo anzi di più, c'è Fabio Micabile in diretta, che è il general manager di Movieland Park, di Caneva World Resort, quindi un parco divertimenti che vede sì molti italiani, però molti stranieri anche. Siamo sul lago di Garda in particolare. Fabio, ciao, buona domenica. Buongiorno a tutti. Stefano, ciao, buona domenica anche a te. Allora, essendo un parco, tu ne vedrai di tutti i colori in tutti i sensi. Sì, esatto. Allora, noi come italiani abbiamo dei difetti che proprio ci caratterizzano. A me viene in mente subito il fatto che saltiamo le code. Questo è proprio la cosa che un po' pensiamo che ci caratterizzi, poi magari non è così. Ma guarda Stefano, io posso darti quindi anche una cronologia, nel senso che sono nel parco da quando ero bambino, infatti il parco appartiene alla nostra famiglia dal lontano 1975, quindi ho visto proprio l'evoluzione del pubblico italiano, e non posso nasconderti che fino a 10-12 anni fa l'italiano era un po', faceva il furbetto, insomma, tendeva a saltare le code, ad accelerare il processo di attesa e via dicendo. E invece devo un attimo comunque dirti che ultimamente, negli ultimi anni, vado fiero di noi italiani, sinceramente, guarda, come comportamento in coda, presso quindi anche i punti di ristoro, nella pulizia ad esempio, carte per terra, mozziconi, sigarette e via dicendo. Quindi posso farti un'analisi positiva, ecco, del turista italiano. Al contrario, qui abbiamo più o meno un'affluenza al parco intorno ai 55% di italiani, il restante un po' il resto dell'Europa. Trovo gli olandesi, ecco, i Paesi Bassi, un po' così, un po' nazionalisti, un po' pieni di sé, un po' frettolosi, un po' facciamo tutto noi, portiamo noi i soldi, quindi possiamo fare quello che vogliamo, ecco. Sono un po' più loro indisciplinati. Mi viene da pensare quindi che noi come italiani, che abbiamo imparato a viaggiare, guardare gli altri paesi, abbiamo preso il buono che c'è negli altri paesi fondamentalmente. Per esempio, una cosa che sto notando è che si comincia a stare a destra sulle scale mobili, e questa era una regola che esisteva soltanto in Inghilterra fino a qualche tempo fa, no? Perché così la sinistra rimaneva vuota e la gente poteva salire le scale più velocemente usando anche le gambe e non aspettando che la scala mobile arrivasse a destinazione. Ed è una cosa che comincia ad arrivare anche in Italia, e questo arriva sicuramente dall'aver viaggiato, perché impari una cosa, certo, e la porti. E quindi questo mi fa pensare che il nostro miglioramento sia quindi dettato anche da questo. E invece non vorrei che gli stranieri, pensandoci in un certo modo, ecco, si vogliano comportare in quel modo lì, che però forse non ci appartiene più così tanto. tanto, grazie al cielo. Ma probabilmente è un format di vita, no? Loro ci pensano, tra virgolette, un po' più primitivi, quindi si sono autorizzati a diventare primitivi come noi, insomma. Ecco. Ma guarda, sono contento del pubblico italiano, anche tu, insomma, conosci la nostra realtà, sì. Trovare. L'hai visto anche nei teatri quando ad esempio inizia uno spettacolo. No, c'è molta qualche più educazione. Anno fa arrivavano in ritardo a metà spettacolo iniziato. È vero. Con l'attesa. Invece adesso c'è un po', quasi se guardi, l'attesa davanti al teatro già mezz'ora prima. Sì, c'è un'autoregola, diciamo, sì, così. Sì, una globalizzazione mentale. Cioè, ecco, Fabio, l'ultima domanda è questa. Tu, siccome hai anche un ristorante all you can eat, nel senso che uno paga un prezzo e poi può mangiare quello che vuole. Ecco, come ci comportiamo in quel senso? Riempiamo ancora i piatti, buttiamo via tanta roba? Invece siamo più attenti, non lo so. Noi abbiamo iniziato 4 anni fa con il primo esperimento di locale all you can eat. Sì. E non ti nascondo che un buon 30% ti faceva pesare il fatto che avendo pagato lui poteva consumare e sprecare. E quindi buttare via anche, esatto. Ecco, non soltanto. Però ogni anno si riduce di un 8-10% questa tipologia di cliente. Quindi a 4 anni, diciamo, dallo startup di questa idea, posso dirti che rimane sempre un buon 10-12% di persone che si sentono autorizzate a sprecare, ma il resto è tutto abbastanza bene. Insomma, ci stiamo educando, questo ci fa piacere. Fabio, puoi fare come qualche posto che ho visitato, all you can eat orientale, e se lasci nel piatto paghi. È giusto anche quello, perché comunque il cibo non va sprecato. Esatto, poi siamo con d'accordo. La possibilità di poterne, come dire, prelevare quantità, conviene fare piccole quantità per più volte, mangiando la pietanza calda e gustandola appena. Sicuramente. Grazie Fabio, buona giornata. Buona domenica anche a voi. Ciao anche a te, tutti. Grazie. Ciao, meno male. Oh, io volevo finire in bellezza, perché va bene che siamo un popolo così, anzi siamo un popolo forse anche un po' così. Prima del prossimo ospite, al quale tengo tantissimo, tra l'altro, ti chiedo, Miguel Mora, di aspettare un attimo in onda, perché voglio farvi sentire questo pezzetto d'Italia. Quanto buonismo, cari amici elettori e sdraiabilmente amiche elettrici, io mi sono battuto per liberare dal carcere presunti mafiosi. Ho dato un modesto aiutino al piccolo latitante improprio, fino ad arrivare a ottenere lo splendido indulto per amici, parenti e associazioni di categoria. Io ho lavorato giorno e notte, ho offerto un posto di lavoro per ogni voto che ho ricevuto, ho fatto approvare leggi per rendere edificabili zone a rischio idrologico. E non è tutto! Io ho trovato la soluzione definitiva per i rifiuti che invadono le strade. Li evito. Ci giro intorno con la macchina. Io offro soluzioni ai problemi dei cittadini. Vabbè, questa era Accetto la Qualunque, l'avete sicuramente riconosciuto, forse noi italiani siamo anche un po' così. Però io ho un ospite che saluto, Miguel Mora, buona domenica. Ciao, buongiorno, come va? Ciao, grazie a te, a me molto bene, ti ringrazio. E anche perché voglio raccontare, insomma, agli ascoltatori cosa succede. Tu sei stato fino a pochi giorni fa corrispondente in Italia del Paese e ora però sei stato trasferito a Parigi e quindi dovrai corrispondere da Parigi e lasci quindi l'Italia. Quanti anni sei stato in Italia innanzitutto? Tre anni e mezzo, quasi quattro, sì, 3 anni e 8 mesi più o meno. Sì. Ecco, in un momento in cui l'Italia, insomma, arranca un po', no? Per tanti motivi. E tu hai scritto un lunghissimo articolo in spagnolo, io ho cercato di farmelo tradurre perché lo spagnolo non lo conosco, però francamente... Troppo lungo vuoi dire? No, troppo lungo no, anzi, no, il problema è diverso. Io non sapendo lo spagnolo ho dovuto farmelo tradurre mi è dispiaciuto essermi perso molto di quello che hai scritto, no? Allora volevo chiederti un po' un riassunto, perché in fondo mi è sembrato un articolo molto positivo sull'Italia. Ma certamente, io sono... Beh, prima di tutto devo dire che io sono innamorato dall'Italia da quando ero piccolo, quasi, quindi da 15 anni, e vedevo i primi film del neorealismo e leggevo i primi libri, e quindi mi sono innamorato in quel momento dell'adolescenza, nel quale gli amori possono essere non durabili, ma altri lo sono. Poi è arrivata un'italiana e qui abbiamo già chiuso il circolo, il cerchio da molto presto. Quindi, dopo di questo, il mio sogno era sempre venire a vivere in Italia. e quindi questo è il problema, è che quando i sogni vengono, diventano reali, allora possono essere sì, come gli amori, no? Esatto, cioè tu immagini una cosa, poi invece vedi veramente. Tu nell'articolo, nell'articolo, siccome Viviana ha appena scritto, credo che l'educazione e rispetto manchi a molti italiani, manca umiltà. Ecco, sei concorde con questo? Pensi che non siamo un popolo educato e siamo un popolo poco umile in generale? Guarda, è difficile generalizzare. Ho amici, molti amici italiani, quindi non sono mica neutrale in questo, ma comunque voglio dire, è un popolo paradossale, un popolo che ama la cultura, ama l'arte, lo cura con grande passione, lo coltiva. E poi vedi che l'autostrada di Fiumicino a Roma, nei messaggi dell'autostrada dicono, si prega di non buttare i rifiuti per il finestrino, quindi vedi che la strada è piena di rifiuti che la gente butta prima di arrivare a casa. Quindi fare una tesi, generalizzare è difficile. Quindi credo che convivano queste due anime italiane, una molto educata, molto cultivata, molto anche elegante, e quest'altra anima un po' incivile che forse i politici coltivano anche, e che non si riesce a capire come sia possibile che siano esistenti allo stesso tempo, no? Quindi io non intendo a non generalizzare, ma comunque che devo dire, l'articolo è positivo sì, ed è allo stesso tempo drammatico, perché vediamo che l'Italia, vista da fuori, ha difficile soluzione. Ecco, no? Aspetta, ti fermo un attimo, Michele, proprio su questo, poi ne parliamo. Do gli aggiornamenti sul traffico e poi continuiamo a parlare con te. Strade in diretta. Sulla 12 Roma Civitavecchia si rallenta per un incidente tra Civitavecchia Sud e Santa Severa in direzione di Roma. Sulla 14 Adriatica un chilometro di coda per incidente tra i due svincoli di Vasto in direzione nord verso Pescara. Sempre nella 14 rallentamenti e code a tratti per traffico intenso in direzione nord verso Bologna, tra Pesaro e Riccione, tra Forlì ed Imola e tra Castel San Pietro e Bologna Borgo Panigale. Molti veicoli in viaggio anche sulla 22 del Brennero, si rallenta verso Modena, tra Bolzano Sud e Rovereto Sud, in direzione opposta verso l'Austria, tra Affi e San Michele all'Adige. Infine sulla 9 Rainate Como Chiasso ci sono code in entrata alla barriera di Como Grandate verso Rainate. È tutto, strada in diretta, torna tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Sono in diretta con Miguel Mora, che è stato fino a pochi giorni fa corrispondente in Italia di El País e dovrà poi andare a Parigi. Discuteremo anche di quello. Miguel, allora, stava raccontando l'Italia vista da fuori in questo periodo, dopo 4 anni insomma di presenza qua. Allora, dicevi. No, dicevo solo che ormai è visto da fuori un paese che si fa fatica a vedere come potrà andare avanti, prima di tutto per la classe politica, che credo che non sia all'altezza della responsabilità di questo momento, e non parlo solo del governo, che abbiamo visto come si è comportato con questa manovra e che ha fatto prima una cosa e poi la cosa contraria e che continuerà avanti così, mi sembra, per mesi, ma anche perché dall'altra parte non si vede veramente un risveglio, una soluzione, un modo di uscire della palude, e quindi questo è la cosa più negativa della mia stanza d'Italia, no? del mio soggiorno. Sì. Credo che ho capito perché gli italiani sono costretti a votare Berlusconi, ho capito anche perché altri si sono fatti imbrogliare, hanno votato a cuore aperto, e ho capito anche perché quelli che votano l'opposizione sono disperati. Quindi un po' questa è la sensazione, no? È disperazione verso una classe politica che non riesce proprio a interpretare che quello che è buono per il paese, e quindi che non è capace di diciamo, curare i vizi che il paese ha, no? Parlo prima di tutto dell'evasione fiscale, in secondo luogo della corruzione, no? Che come abbiamo visto negli ultimi giorni, il giornale leggiamo e Radio 24 ascoltiamo anche. Miguel, tu da corrispondente, proprio su queste cose, voglio farti delle domande apparentemente banali, così, però voglio chiedertelo, perché comunque è un occhio diverso da quello nostro, no? Perché noi italiani magari siamo anche un po' accondiscendenti verso noi stessi, ovviamente, lo dobbiamo anche essere forse per difesa. E ti voglio chiedere, e adesso stanno arrivando molti sms in questo momento, secondo te siamo un popolo davvero in qualche modo, e parliamo sempre genericamente, così legato alla televisione e quindi in qualche modo siamo educati proprio da quella, o forse hai visto anche sì, siamo così diseducati, direi, no? Diseducati, sì, vabbè, educati sì, tra virgolette, sì, no? Magari la televisione fosse educazione, ci sono no, ho capito, però la domanda ma, era sì, ma, credo, ma credo che questo, beh, Pasolini l'ha visto prima di tutti e l'ha annunciato prima di tutti, credo che la televisione ha rovinato l'Italia veramente in questi ultimi 30 anni. La televisione, lo stile della televisione, il cattivo gusto della televisione, la banalità della televisione, la spazzatura che ha trasmesso la televisione a 24 ore su 24 ha inevitabilmente corrotto l'anima del paese in un senso, ecco, no? Scusami, un messaggio dice la civiltà di un popolo si vince anche da come usa la toilette. Sei d'accordo? Qui c'è molto da discutere, io credo che la toilette in Italia si usa molto bene e devo dire che appena arrivato in Francia ci manca assolutamente il concetto della toilette italiano e abbiamo visto che il bidet in Francia è sparito. È certo che non c'è, una cosa che fa schifo e poi la doccia la considerano una cosa un po', diciamo, strumentale e occasionale, no? Quindi tu hai la grande vasca di bagno la quale devi scalare con una scala perché è alta come un muro e quindi viene fatica a farsi pulire e questo gli italiani del sud lo capiscono pure meglio che gli altri, no? Perché noi condividiamo l'anima araba, sì. E ci piace molto l'acqua, no? Con gli spagnoli e quindi sì, questo è uno scontro culturale, devo dire che preferisco con grande differenza la toilette italiana a quella francese. Senti, andrei a Parigi a questo punto, lascerai l'Italia, immagino che ti dispiacerà un po', sicuramente, insomma, ma si capisce. Certo, no, il sentimento che comanda in questo momento è la tristezza e la nostalgia per gli amici che lasciamo indietro, per la meravigliosa Roma che abbiamo vissuto in questi anni, malgrado tutto, la qualità di vita, diciamo questa essenza di paesino che è al centro di Roma è una cosa che non esiste più, no? Da nessuna parte del mondo, in Europa. E quindi questo sarà dura, questa sarà durissima, molto dura. Cosa ti aspetti di trovare a Parigi invece? Beh, gente antipatica, soprattutto un po' arrogante. Quello è il luogo comune, vedi, di Parigi, dei francesi, antipatici e arroganti. Poi non è detto che sia così. Non devi dimenticare che sono nostri vicini anche, quindi certo. noi li consideriamo lo stesso. Ma anche comunque voi spagnoli siete nostri vicini. Ti devo dire comunque che il mio direttore ha detto devi andare via dall'Italia perché vi assomigliate troppo tu e l'Italia. Quindi... quindi sei troppo benevolo, ci vuole qualcun altro. Ci manderà un francese a questo punto? Arriva un caro collega bravissimo che è stato corrispondente in Messico negli ultimi anni, sì. Si chiama Pablo Ordaz, allora vi lascio in buone mani, grazie. Grazie Miguel Mora per quello che hai scritto sull'Italia, anzi, e continua ad amare il nostro paese, insomma. Tanto l'italiano ormai lo sai benissimo, sono io che dovrei imparare lo spagnolo. Buona domenica, buon viaggio e buona esperienza in Francia. Ciao Miguel Mora, grazie, corrispondente appunto in Italia di El País e che adesso andrà, come avete sentito, in Francia. 11:23 quasi minuti, è il momento del nostro gastronauta. Formaggio Gran Moravia, sulla pasta o stuzzichino è piacere sopraffino. Vi presenta Il Gastronauta. Eccoci qui, le 11:23 minuti, Davide Paolini, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Hai sentito Miguel Mora che se ne va dall'Italia, lui da spagnolo, così attaccato al nostro paese? Sì, ho sentito. Qual è il difetto più grave che abbiamo noi italiani, secondo te, Davide? Ma il più grave difetto è che la mamma, perché ad esempio, torno subito al cibo, quando andiamo all'estero andiamo a cercare sempre gli spaghetti, andiamo sempre a cercare i ristoranti con il tricolore, e rimaniamo sempre ancorati alle nostre esperienze, alle nostre tradizioni, non cerchiamo mai di capire gli altri anche su questo. Credo che uno dei motivi più importanti per capire un paese è anche il cibo. Io sono d'accordo, Davide, però io posso dirti che credo sia anche un problema di traduzione dei menù. Cioè, tu quando comunque vai all'estero e non sai bene la lingua, a volte veramente non capisci cosa stai prendendo. E quindi la difficoltà di non capire, siccome noi siamo molto legati a quello che mangiamo, cioè ci piace capire cosa stiamo mangiando, il fatto di non capire cosa c'è nel piatto ci infastidisce. Almeno per me è così. Io quando non riesco a tradurre un menù, veramente trovo difficile ordinare, ti dico la verità. E quindi andare sullo spaghetto è più facile, no? Lo leggo, beh, so cosa sì, prendo. No, non credo che sia questo. Io credo sia proprio un fatto di pigrizia, un fatto di questi legami così forti da cui non ci vogliamo mai sciogliere. Però prima ho sentito un'osservazione che tu hai fatto, sì, e devo dire di essere completamente d'accordo quando dici, o qualcuno ha detto, che quando gli stranieri arrivano in Italia si adagiano sui luoghi comuni degli italiani di 30 anni fa. Sì, lo dicevo con Fabio, sì, amicabile. E diventano veramente indecenti. A me è capitato tempo fa in treno di vedere uno straniero togliersi le scarpe puzzolenti e di mettere i piedi sull'altro sedile. E quello era un inglese, sicuramente nel loro paese non l'avrebbero mai fatto perché l'avrebbero portato in carcere. Invece in Italia, siccome c'è questo luogo comune della permissività, tutti fanno quello che non farebbero nel loro paese. E devo dire che questo è veramente molto ma molto triste, e forse anche è stata colpa nostra perché abbiamo dato questa immagine, probabilmente. Però per tornare ai menù, io sì, credo che se tu vai all'estero, specialmente negli Stati Uniti, trovi dei menù italiani che sono scritti in ostrogoto, e quindi trovi gli spaghetti alla napoletana e la cotoletta alla veneziana, insomma, quindi credo che ci sia anche questo. E il caffè, ecco, il caffè è un altro fatto, che tutti gli italiani si lamentano del caffè in giro per il mondo. Io non sono molto d'accordo su questo, ma se si abituassero a bere non il caffè espresso, magari bevessero il caffè che bevono in quei paesi, probabilmente non si lamenterebbero. Così pure quando gli stranieri vengono in Italia, che magari dicono che è troppo corto e troppo, forse troppo forte. Insomma, c'è questo problema. Però per tornare al cibo, io credo che il cibo sia un modo per capire. E non voglio tirar fuori una pagina di Calvino bellissima di Sottosole e Giaguaro, ma il cibo, introitare il cibo in un territorio serve a capire quel territorio, quindi questo è fondamentale. Gli stranieri lo fanno, molti stranieri lo fanno. Devo dire che ogni tanto mi è capitato di scovare in posti veramente poco conosciuti degli inglesi o degli americani o dei tedeschi o dei giapponesi che con le loro guide hanno veramente delle indicazioni formidabili. Ecco, forse noi manchiamo anche questo, che non abbiamo delle guide formidabili in italiano per andare a scoprire dei posti giusti nei paesi esteri, perché tutte le guide sono di solito scritte in lingua madre inglese e sono quelle che dettano legge. Ecco, quindi insomma, vedi che alla fine comunque è sempre un problema di traduzione, no? Di lingua, se siamo pigri da quel punto di vista. Cioè, alla fine, quando non riusciamo bene a capire, ci allontaniamo e non ci avviciniamo più. Ecco, siamo un po' così. E forse da un punto di vista della conoscenza della lingua straniera, dell'inglese anche in primis, siamo ignoranti. Ecco, da quel punto di vista. Beh, guarda che ci sono dei piatti tradizionali italiani che sono un po' difficili da tradurre. No, quindi, capisco. No, ma io dico anche quando appunto ci troviamo di fronte all'ignoranza. Ignoto, è difficile che ci si avvicini. Noi italiani siamo così legati alla nostra tradizione culinaria che insomma facciamo fatica anche da quel punto di vista. Ci sono molti paesi che ci sguazzano su questo ignoto. Qui qualcuno direbbe, ma sai, negli altri paesi, tipo in Inghilterra, si mangia così così, quindi è evidente, tutto da scoprire. Però sai, resta il fatto che quando tu vai a fare delle indagini sugli stranieri che vengono in Italia, al primo posto ti mettono il cibo con le bellezze naturali, quindi cioè, vuol dire che hanno scoperto il cibo, vuol dire che sono andati oltre l'ignoto, secondo me. Noi abbiamo questo difetto. E poi ho sentito prima la battuta del giornalista del Paese, sì, i francesi, io direi che non solo sono presuntuosi e antipatici, quindi specialmente nel cibo. Ora hanno abbassato un po' la cresta, ma per anni sono stati veramente presuntuosi e antipatici. Vai a chiedere a un francese che ti traduca un piatto in un menù. Assolutamente non te lo traduce. Io addirittura dubito che ci siano molti ristoranti francesi che hanno la traduzione in inglese dei loro menù. È possibile. Però ci sono anche molti menù in Italia che difficilmente sono tradotti in giapponese. Ah sì, beh, questo sicuramente. Però insomma l'inglese dovrebbe essere ormai, insomma, è una lingua universale. Scusami, mi viene in mente una battuta troppo bella della pubblicità di Totti, l'ultima che ho visto, quando gli dicono arigato e lui risponde no, e pesce crudo no, è sushi. Ecco, insomma, credo che questa gag, secondo me, potrebbe essere portata sulla non conversazione a tavola. Va bene, grazie Davide Ponini, sentiamo poi sabato prossimo con te, domenica con me. Buona giornata, ciao. E buona mangiata anche tra poco. Tra poco si giocherà invece, prima di avvicinarsi alla tavola, 800 24 00 24, per voi fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. E avete sentito, alla fine siamo un paese che migliora e questo non ci può che far piacere. Il riposo del guerriero. Siamo quasi pronti per giocare, arrivano molti sms oggi, vabbè, insomma, vizi e pregi ovviamente li abbiamo tutti, però ne volevo leggervi questo di Roberto di Bari. Dice: sono d'accordo con Davide Paolini, però sono appena tornato dalla Normandia e sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che parlano quasi tutti in inglese e che i menu sono tradotti, per cui vabbè, anche noi, no, si partono dai luoghi comuni. Ovviamente sapete che i francesi hanno un astio verso gli inglesi e non usano tanto le loro parole, non sia mai. Però la Normandia, devo dire anche che è un po' una zona a sé, da tantissimi punti di vista. Vabbè, comunque, argomento chiuso, perché dobbiamo cercare di farvi vincere questi 1000 euro. Ce l'abbiamo fatta, tra l'altro, con l'ultima puntata del gioco, circa la fine di luglio era, se non mi sbaglio. Siamo riusciti a regalarvi tutti i 1000 euro, speriamo di farlo anche oggi. 800 24 00 24. Un mistero in 24 minuti. La soluzione di questo mistero può essere una notizia della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di conosciuto. Dovete arrivarci grazie agli indizi musicali che vi farò ascoltare. Ma più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà. E il primo indizio di questa settimana, eccolo qui. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits. Dressed up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper. Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Avrete riconosciuto le claquette, che sono le scarpe, quelle con rinforzi di metallo sulla punta e sul tacco, che servono per ballare il tip-tap, in modo che poi il rumore si senta di più del movimento dei piedi. Erika da Roma, ciao! Ciao! Ciao, buona domenica Erika! Buona domenica anche a te! Non so se hai riconosciuto questa canzone, l'originale era un pezzo di Fred Astaire, si intitola... Sì, Putting on the Ritz. Brava, sei preparatissima, anche se io l'ho pescato da un'altra, l'ho pescato da un'altra cosa, infatti è un po' cambiata la canzone perché l'ho pescata da un'altra situazione e poi vi racconterò qual è. Erika, cosa vuoi fare? Altro indizio oppure la tua risposta? Io direi un altro indizio, così ho, diciamo, il range di scelta si riduce. insomma. Va bene, allora scendiamo a 500 euro. Che è successo legato a un film di Adriano Celentano, Erika, l'avrei riconosciuto, non è che sì, abbia... Sì, ma che fare un po' con i cavalli, non lo so, mi sembra, sì. Non lo so, io sto un po' tentando perché mi è venuto in mente la canzone, il significato della canzone è sul vestirsi un po' alla moda, seguire la moda. Che è Putin on the Ritz, sì, certo. E quindi ho legato il discorso della moda a un evento che c'è comunque in questa ultima settimana che dovrebbe concludersi oggi, che l'Equestrian Style 2011 ad Arezzo. Perfetto. È un matrimonio tra moda e sport. Erika, è una bella iniziativa, non posso aggiungere altro e ti ringrazio per la tua risposta. Potrebbero essere 1000 euro, ciao, buon anno, 500 anzi, ciao, buona domenica, anche perché siamo scesi. Restiamo a Roma, ma parliamo con Laura. Buona giornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Laura, siamo a 500 euro. Sì. Mm. Ma io decido di ascoltare un altro indizio. Quindi tu vorresti aggiungere e scendiamo così a 300 euro, ok? Sì, ok. Attenta al testo di questa canzone. Se no. C'è un po' gigiona di Mina in questo In Onda, lei si propone come alternativa alla televisione in questa canzone. Allora, Laura, questo era il terzo indizio, allora, siamo a 300 euro. Tu mi hai detto di ascoltare, quindi bene il testo della canzone. Ma un po' questo. Sì, perché insomma racconta di questa, non so, della televisione, racconta in poche parole quello che a volte si sostituisce al rapporto fra due persone. Ma io ho pensato, non lo so, a Monica Bellucci, che magari sì, che ha deluso un po' le aspettative, visto che ha fatto sì, una scena di nudo non è piaciuta molto. E tutti si aspettavano quello, vabbè. Venezia. Bisogna vedere la recitazione, bisogna vedere, no? Le foto, cioè il nudo è un'altra cosa, bisogna vedere la recitazione. Non so perché quando vedono la Bellucci se l'aspettano solo in un certo modo, bisogna vederla anche da un altro punto di vista. Quindi secondo te non ha scandalizzato abbastanza e il pubblico avrebbe voluto essere più scandalizzato, probabilmente. Vabbè. E magari la sua interpretazione è piaciuta molto. Ecco. Allora, senti, quindi mettiamo Monica Bellucci come personaggio, Laura? Secondo te la tua risposta? Sì. Va bene. Grazie Laura, sarebbero 300 euro se la risposta fosse giusta. Buona domenica. Grazie a te. Ciao, ancora Raffaella dalla provincia di Vicenza. Ciao Raffaella, buongiorno. Buongiorno. Allora, oh, che bella voce squillante. Avrei fatto delle ottime vacanze, immagino. Sì. Non ho sentito, scusa. Avrei fatto delle ottime vacanze, ho detto, spero. L'ho buttata lì. Beh, sì, tranquille, immaginavo. Comunque. Allora, Raffaella, cosa vuoi fare? 300 euro, tre indizi li abbiamo già scoperti, ne abbiamo ancora due per te, se mai li volessi, però cosa vuoi fare? No, io tengo quelli che ci sono già, anche perché sono qui con il mio ragazzo, la risposta sarebbe sua e me l'aveva detta già il primo indizio. Che cosa? Non ho capito, scusami. Ho detto che la risposta ce l'avevo già con il primo indizio. E questo ho capito, ma non ho capito la risposta, perché forse non l'hai... Scusi, la risposta è la manovra finanziaria. Ah, non l'avevi detta, ecco perché. No, no, esatto. Non ho capito quello che non è stato detto, in poche parole. Esatto, esatto. La manovra finanziaria. Sì. Quale? L'ultima, quella nuova. Dai, che hanno fatto. Hanno cambiato, ce l'hanno fatto passare per una cosa, poi l'hanno trasformata. Va bene, grazie Raffaella, ciao. Buona domenica. Grazie, arrivederci. Quale? 800 24 00 24. Gli aggiornamenti sul traffico. Aspetta, sentiamo Ugo da Cuneo. Ugo, Ciao, buongiorno. Ciao Ugo, buongiorno. Allora, la domanda te la faccio subito. Vuoi ascoltare un indizio o vuoi dare una risposta? Ma io proverei a dare la risposta. Va bene. Sperando allora, che sì, sia accettabile, perché anche a me era venuta dopo il primo indizio. Era il ministro Tremonti che paragona la crisi finanziaria ai mostri di videogame. Perché se non sbaglio il brano era preso da Frankenstein Junior di Bell Brooks. Allora è molto giusto, nel senso, anzi grazie anche a Gianluca che ha scritto un messaggio, e sì, il brano è tratto proprio da Frankenstein Junior ed è il pezzo che viene ballato da Gene Kelly e da Frankenstein. L'attore, ho sbagliato, non è Gene Kelly ma Gene Wilder, scusatemi, ed è vero, e quindi dimostri in qualche modo, tu dici, questo paragone, va bene, non posso dirti niente, però sicuramente, Ugo, potresti aver aiutato gli altri ascoltatori dicendo che il primo indizio è tratto proprio da Frankenstein Junior. Bravo Ugo. Speriamo. Sei stato bravo ad aiutare gli altri. Ciao. Ciao. Buona domenica. Ciao. Un mistero in 24 minuti. Qualche risposta l'abbiamo data, 3 indizi sono stati scoperti. Antonio, dalla provincia di Terni. Antonio. Ciao, ciao Stefano. Ciao Antonio. Allora, cosa vogliamo fare, a parte il ronzio che c'è nel telefono? Sì, aspetta, provo a spostarli. Beh, una risposta ce l'ho, però non mi sembra... Vorrei provare un altro indizio. Allora scendiamo anche a 200 euro. Eccolo qua il quarto indizio. From cradle to tomb, it isn't that long a stay. Like these a cabaret old chum. It's only a cabaret old chum. And I love a cabaret. Ecco, lo farò sentire tutta questa canzone che volevo gustarmi quello che è questo finale travolgente della versione del cabaret cantata da Liza Minnelli, perché se siete andati a vedere la versione italiana qualche anno fa con Michelle Hunziker, senza togliere niente a Michelle Hunziker, però a questa canzone alla fine lei si abbassava al posto che salire, perché insomma è difficile, e allora mi mancava un po' questo acuto che volevo riascoltare. Antonio, ciao. Sì, ciao. Eccoci qua. Allora, la canzone dice tutto, ma... La canzone dice tutto, sì. Scelta. Quindi, la tua soluzione. La risposta è rimasta quella che avevo in mente, perché gli indizi che ci hai fatto sentire sono o dei musical o hanno a che fare col mondo del cinema. Quindi hai perso soltanto 100 euro, è questo che volevi dire. Ecco, va. Nel caso abbia vinto, certo. Vai. E il Festival di Venezia. Appunto, no? Certo, no, non so se è giusto, però voglio dire, sì, un po' ci sta la risposta. Grazie Antonio, ciao. Grazie, buona te, domenica, ciao. Ciao. Nicola da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci qua. Allora, Nicola, hai apprezzato la... Cosa c'è? Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Allora, hai apprezzato Liza Minnelli? Ma sicuramente. Eccola lì. Sicuramente. Vogliamo dare una risposta, Nicola, che abbia un senso? Beh, cominciamo a dare un senso a tutto, no? Ma una risposta non credo purtroppo di darla definitivamente, anche perché mi avete praticamente trovato tutte le risposte che avrei dato io, da Frankenstein Junior, a Fred Astaire, a Liza Minnelli. Forse... Guarda che nessuno ha risposto ancora correttamente. Guarda, ti dico così, ecco. Sai che non c'è ancora stata la risposta giusta. Ma secondo me fa riferimento a un periodo storico. Puoi quindi... anche chiedere l'altro indizio. Siamo all'ultimo indizio in allora questo caso. Allora chiediamolo, sì, dai. Ce la facciamo? Sì. Allora andiamo a 100 euro. Monte Carlo, me ne vado bello. Hello, hello, hello. Monte Carlo, il tavolo da gioco. Monte Carlo, mi piace mica poco. Monte Carlo, se lo vedo sto in semi. Nicola, allora questi sono i Vallansaska, che sono un gruppo che appunto suona musica ska, e il titolo della canzone era ovviamente Monte Carlo. Abbiamo detto credo tutto per dare la risposta, Nicola. risposta è lo smoking, è un elemento comune a tutte le cose che abbiamo visto, cioè sentito. Non posso dire niente. Ciao Nicola, grazie, okay, sarebbero 100 okay. euro. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Angelo della provincia di Modena, buongiorno Angelo. Buongiorno a tutti. Siamo a 100 euro, non è mai successo di ascoltare tutti e 5 gli indizi. Cosa facciamo? Ci sono anche questo, giustamente. Cosa facciamo? Dobbiamo dare una risposta per forza, quindi gli indizi non ce ne sono più. Se vuoi possiamo riascoltarli, ovviamente. No, riascoltiamoli, perché tanto non li puoi. Riascoltiamoli per forza, vai. Decido io. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Yuppidu, yuppidu. Eccoli qua, erano Putin on the Ritz, tratto da Frankenstein Junior, l'abbiamo detto, ed è importante sapere questa cosa. Yuppidu, Celentano, in onda, Mina, Cabaret, Zaminelli e Monte Carlo e Vallanzasca. Eccoci, allora. Non è che abbia delle grandi idee, ma l'unica cosa che mi rimane in mente è Strauss-Kahn, che in questi giorni è riuscito a tornare via da New York. È appena ritornato, infatti. Grazie Angelo, buona domenica. Ciao. Grazie, buona domenica anche a voi. Fabio, pronto? Pronto, eccoci. Sì, sono qui. No, non è ancora scaduto il tempo, manca circa... Ah, è scaduto? Ok. Fabio, sei sullo scadere del tempo e quindi... Addirittura d'arrivo. Sì, ok, vai. Allora, dimmi la tua risposta. Allora, io ho pensato a Raimondo Vianello. No. La risposta era, lo diciamo, era Ezio Greggio, che ha aperto fuori concorso la mostra del cinema di Venezia con Box Office 3D. Ezio Greggio perché? Voi sapete, un grandissimo amico di Mel Brooks, e questo lo sanno tutti, ecco perché Frankenstein Junior, il primo indizio. Yuppidu perché era la canzone che ricordava gli Yuppies, è stato il primo film che ha visto Ezio Greggio come interprete. In onda, beh, perché con Striscia la Notizia lo vediamo sempre, la televisione è stato il suo trampolino di lancio. Cabaret perché è un cabarettista, e Monte Carlo perché vive a Monte Carlo Ezio Greggio, e in più è anche da anni il direttore del Monte Carlo Film Festival. Ecco perché era lui la risposta. Mi dispiace, grazie però, ciao, buona domenica. Ciao. Ciao, niente da fare, quindi volevo segnalarvi due cose prima di chiudere. Potete andare su Facebook e cercare Female Street Art on the Roof, ovvero donne che creano street art sul tetto. Female Street Art on the Roof è un evento del quale sicuramente parleremo, e che però vedrà proprio oggi pomeriggio fino a questa sera una mostra particolare qui a Milano, e che verrà dedicata sicuramente a questa situazione, a queste donne artiste, ma appunto questa sera c'è un'anteprima un po' particolare, se volete andare su Facebook a vederla. E poi vi ricordo in Piazza del Duomo a Milano, proprio in Piazza del Duomo, ci sarà il ritrovo di tutti i cori gospel italiani, per cui una grandissima manifestazione, canteranno direttamente dal Sagrato, e ne parleremo anche poi quando parleremo di musica e canzoni nel corso delle prossime puntate. Grazie a Giorgio De Luca in redazione e assistenza e a Carmelo Lauricella in regia. Ci sentiamo domenica prossima alle 10.